Letture di Radio 24. A tutti, prima o poi, capita di pensare ad altro nel momento in cui invece dovremmo essere particolarmente concentrati. E questo non succede solo durante le riunioni noiose, ma anche quando stiamo facendo qualcosa che ci interessa. Questo perché siamo biologicamente disposti ad alternare il prestare attenzione con il pensare a tutt'altro, come spiega il neuroscienziato Michael Corballis, che a questo tema ha appena dedicato il libro La mente che vaga. Il vagare con la mente non può essere considerato solo negativo. Può darsi semplicemente che si tratti di una forma di riposo o di rilassamento che consente al cervello di riprendersi dalla fatica dell'impegno svolto. Sta di fatto che i nostri viaggi mentali ci potrebbero sì rendere infelici nel momento in cui ostacolano una prestazione efficiente o addirittura rappresentano un pericolo, mentre siamo alla guida, ad esempio. Ma ci rendono anche creativi, alla stregua di un William Wordsworth che si lascia trasportare come una nuvola o di un Albert Einstein che immagina di viaggiare su un raggio di luce. Nel libro La mente che vaga cerco di mostrare che questo fenomeno del distrarsi ha molti aspetti adattivi e costruttivi di cui non potremmo fare a meno. Include infatti l'andare avanti e indietro nel tempo, non solo per pianificare il futuro sulla base dell'esperienza passata, ma anche per generare un senso di continuità nella nostra esistenza. Allo stesso modo, nel distrarci ampliamo i nostri orizzonti, accresciamo l'empatia con il mondo, inventiamo, raccontiamo storie. In fondo è la rivoluzione immaginativa che ha reso l'uomo, già da decine di migliaia di anni, un animale speciale. La natura ci ha equipaggiati per essere molto più di semplici robot. I nostri cervelli hanno generato risorse extra per affrancarsi dal qui e ora e dai compiti quotidiani, per giocare con il tempo e con lo spazio. Più vaghiamo e più è probabile che riusciamo a trovare i collegamenti nella realtà per qualcosa di nuovo. La scintilla da dove arriva? Dalla casualità che sembra permeare l'intero universo, divagazioni umane comprese. La comparsa della vita stessa nel nostro pianeta è un evento fortuito. Anche gli animali sono predisposti a vagare nello spazio, ma lo fanno in quanto diretti a uno scopo, prendendo il sentiero più battuto verso il pozzo d'acqua. Ma l'animale uomo va anche semplicemente a zonzo, esplorando territori sconosciuti, forse incuriosito di sapere cosa c'è dietro la curva. E questo ha contribuito e contribuisce al cambiamento evolutivo della specie umana. Se state cercando un'idea, fate una pausa e dedicatevi a qualcosa di poco impegnativo. È stato dimostrato che è più facile trovarla così rispetto al non far nulla. C'è chi dice che le 3B, bus, bath and bed, bus, bagno e letto, siano i luoghi dove si fanno le grandi scoperte. Pare che Henri Poincaré abbia avuto l'intuizione matematica mentre saliva sul predellino di un omnibus. Archimede sembra aver scoperto che l'acqua lo teneva a galla mentre stava facendo il bagno. E per quanto riguarda il letto, i sogni possono indurre a viaggiare. Ma è forse più probabile che l'illuminazione arrivi quando non riusciamo a dormire e siamo sufficientemente consci per catturare l'ispirazione. Si potrebbe poi aggiungere una quarta B, la boardroom, la sala riunioni. Un ambiente quasi perfetto per l'incubazione di trovate interessanti. Al mio amico, infatti, nel caso l'amministratore delegato lo beccasse sovrappensiero, ho consigliato di rispondere «Sto aprendo le porte alla creatività». E poi c'è la boredom, la noia tanto elogiata da Joseph Brodsky. Secondo il premio Nobel per la letteratura, è la nostra finestra sull'infinità del tempo, finestra che però siamo inclini a ignorare. Una volta che si è aperta, non cercate di chiuderla, anzi, spalancatela, scrive. Così sento il dovere di difendere l'essere mentalmente assenti. In qualunque modo voi scegliate di uscire dal seminato, non scoraggiatevi pensando sia una perdita di tempo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michael Corballis? Assenti giustificati, estratto dal suo libro La mente che vaga, Raffaello Cortina Editore, pubblicato sul numero di dicembre del magazine Style. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Nel tentativo di contrastare il fenomeno della contraffazione, il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato che entro 2 anni metà della popolazione indiana abbandonerà definitivamente il contante fisico e già nei prossimi giorni verranno ritirate le banconote da 500 e 1000 rupie. La decisione di bandire nottetempo dal corso legale le banconote da 500 e da 1000 rupie, i tagli più grandi, 6,8 e 13,7 euro, ovvero l'86% del denaro in circolazione in India, pari a circa 220 miliardi di dollari, è stata nascosta agli 1,2 miliardi di abitanti della più grande democrazia del pianeta, fino all'annuncio dell'8 novembre di Narendra Modi, leader del partito nazionalista al potere dal 2014. È la più rapida e brutale demonetizzazione in un'economia moderna e in crescita mai vista. Il proposito dichiarato è combattere l'economia sommersa e illegale. Tra il 70 e l'80% delle transazioni per acquisto di beni avviene in contanti. Le banconote bandite potranno essere usate temporaneamente alle pompe di benzina e negli ospedali pubblici. Modi aveva detto agli indiani che potevano cambiare le banconote fino al 31 dicembre, ma la settimana scorsa ha fermato la conversione, secondo il Financial Times. La demonetizzazione repentina e il processo di sostituzione farraginoso fin dal primo principio hanno creato sofferenza tra la popolazione, soprattutto povera. 55 le persone morte durante l'impressionante corsa agli sportelli nei 10 giorni successivi alla decisione, secondo la denuncia di Randeep Suryevala, portavoce del partito d'opposizione Indian National Congress. Malori, affaticamento, attacchi di panico sono alcune delle sintomatologie che hanno colpito molti indiani, come hanno riportato i media locali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Brambilla, Ma che Modi, da Il Foglio del 5 dicembre. A volte è meglio evitare di scusarsi del tutto piuttosto che farlo in modo eccessivo o non sincero. Una ricerca della Harvard Business Review divide le cattive scuse in 4 categorie. Ci sono le scuse non sincere, le scuse eccessive, le scuse incomplete e infine la negazione delle scuse. Le scuse non sincere sono, come si intuisce, quelle dette a mezza bocca, vuote e senza sentimento. Chi le riceve lo capisce e, come è ovvio, non apprezza. Potrebbe sembrare una soluzione veloce, sbagliare, scusarsi senza tante storie e poi ricominciare come prima, ma alla lunga è dannosa. I problemi provocati dagli scontri con le altre persone restano, vanno in profondità e rendono la vita difficile. Ci vuole sentimento, cognizione di causa e umiltà. Le scuse eccessive, invece, sono l'esatto opposto dal punto di vista della forma, ma sono identiche nella sostanza. Ci si scusa troppo a lungo per errori banali, si insiste nell'autoflagellazione e alla fine si infastidisce l'interlocutore. Perché? Semplice. Non trasferisce il centro del discorso sul danno commesso, cui si dovrebbe voler porre rimedio, ma su di sé. E questo quando si vuole ottenere perdono e dare spazio e rispetto alla persona che ha subito un'offesa, è un errore imperdonabile. La terza categoria sono le scuse incomplete, un genere che si impara fin dai tempi dell'asilo. Non si dice scusa, ma mi dispiace. Non si dice scusami per quello che ho fatto, ma scusami se ho fatto qualcosa. È una formulazione che tende a estraniare il soggetto responsabile dell'offesa dal fatto compiuto. Rende evidente che in realtà non c'è nessun pentimento, spesso non c'è nemmeno il riconoscimento della colpa e nessuna intenzione di ammettere e correggere l'errore. Esiste un intero formulario di scuse incomplete. Anche queste però possono sembrare soluzioni furbe, ma sono sempre tossiche per rapporti di lungo periodo. Al quarto posto, appunto, c'è la negazione, la non scusa. Non è colpa mia. Di buono c'è che, almeno, è sincera. Non si vuole ammettere la colpa, non si pensa nemmeno di aver sbagliato. Attenzione, scusarsi è bene, non scusarsi è lecito se si pensa davvero di avere ragione. Ma la cosa migliore è raffreddare gli spiriti, ragionare a mente fredda e ripercorrere l'accaduto. Se si vede di aver sbagliato, riflettere sull'errore e chiedere scusa. È un gesto difficile, ma giusto. Poi provare a migliorarsi, se si riesce. Avete ascoltato l'articolo di Link Pop, i quattro modi di chiedere scusa che non funzionano, garantito. Pubblicato il 28 novembre sul sito L'Inchiesta. Baby, I like Una volta, quando non esistevano le playlist, i nostri gusti musicali venivano costruiti meticolosamente nel corso degli anni, partendo dalle recensioni sulle riviste specializzate, passando poi per quello che veniva proposto dalle radio o per i consigli degli amici. Scelte spesso limitate dalle disponibilità economiche, dalle difficoltà nell'ottenere dischi o anche solo informazioni dall'estero. Oggi che ognuno di noi può avere a disposizione sul proprio smartphone un negozio virtuale con 30 milioni di canzoni, le scelte sono però ancora più limitate perché arrivano dall'alto, dai signori delle piattaforme di streaming. Si parte con un'ipotesi, tipo che musica voglio ascoltare mentre faccio una pausa relax, o il lunedì mattina per affrontare la settimana, o per elaborare il lutto della rottura con la fidanzata. Ogni ipotesi ha un brano che la incarna, intorno al quale trovarne altri che rispondano alla stessa domanda. Quindi serve un titolo, un'immagine accattivante, un numero che in media va da 30 a 50 canzoni, per un totale di 2-3 ore di ascolto, coerenti tra loro. E il gioco è fatto. Come ogni ipotesi che si rispetti, anche quella della playlist va verificata. Così se quando arriva la traccia numero 3, poniamo, troppe persone skippano, la saltano, gli editor prima cambiano la sequenza, poi spostano il brano in un'altra compilation e se facilecca anche lì, lo fanno fuori. Perché ogni comportamento degli utenti lascia traccia. Sanno quante volte ripeti un brano, se lo salvi offline per sentirlo anche senza connessione, se lo condividi e con chi, e ne fanno tesoro. Ci sono playlist automatiche, interamente assemblate dal software, come la popolarissima Discovery Weekly, che ogni lunedì propone una rassegna basata sui tuoi gusti, oppure il recente Daily Mix, o il Release Radar, che si concentra sulle nuove uscite. Ma anche quando il selezionatore ha il sangue caldo, l'algoritmo che qui chiamiamo Keanu, in omaggio a Reeves, protagonista di Matrix, aiuta a rimpolpare l'ipotesi con pezzi simili a quelli originariamente scelti dai curatori. Non è una competizione tra analogico e digitale, insiste Ford, ma una collaborazione che io chiamo algotoriale, algoritmica e editoriale. Troppo conciliante. Perché in tempi di dibattito sulla sostituzione degli umani da parte dell'intelligenza artificiale, questa vicenda segna una rara vendetta dei primi, del loro sapere e della loro capacità di raggruppare cose a prima vista disparate. Tuttavia, permane una serie di problemi, come quello per cui 70 esseri umani da soli riescono a servire una clientela di 50-100 milioni, la crescita senza lavoro denunciata da tanti economisti, che l'1% dei musicisti fa da solo il 77% del fatturato, o che, a una media di 6 centesimi di dollaro per ascolto, è dura, durissima, se non impossibile, per un artista campare con lo streaming, secondo la miserabile ma sempre più accettata equivalenza dollari analogici centesimi digitali. Una trentina di playlist oggi supera il milione di ascoltatori. Finiremo tutti, nonostante la fenomenale varietà di partenza, ad ascoltare le stesse tracce, come succede con i ristoranti per l'effetto TripAdvisor o con i risultati delle ricerche nella prima pagina di Google. Ma no, tranquillizza Ford, per un semplice motivo, che le playlist sono organismi viventi che vanno innaffiate in continuazione come si farebbe col proprio giardino. Le piante appassite si potano o se ne piantano di nuove, nessuna rimane troppo a lungo uguale a se stessa. Quello della fine della infodiversità, però, non è un dibattito ozioso, perché non esiste limite tecnologico al fatto che la playlist che oggi attrae 8 milioni, domani non ne cumuli 10 volte tante. Certo, sopravviverebbero tante nicchie, ma nascerebbe un mass medium nuovo, enormemente influente. Il critico jazz del New York Times, Ben Ratliff, sostiene che l'attaccamento al genere è fuori moda. Invita dunque a uscire dai tranquillizzanti laghetti della tradizione per tuffarsi nel mare aperto delle nuove piattaforme. Per quel che vale, io ci ho provato per essere infine sopraffatto dall'abbondanza. Al netto di qualche bella scoperta, mi sono sorbito un sacco di robetta, rinforzando la convinzione che a volte more is less e che le euristiche messe a punto con l'esperienza servono proprio a evitare di perdere tempo con quel che non ci piacerà. Per non dire della perdita, questa oggettiva, di tutto il paratesto una volta costituito dalle copertine, i testi e le altre informazioni che fornivano un contesto alla musica alla spina, qui e ora, in cui sguazziamo oggi. Dal rumore di fondo delle opinioni emergono due segnali chiari. Uno, alla fine degli anni 90 l'industria musicale valeva 38 miliardi di dollari contro i 15 attuali. Due, il numero di musicisti professionisti in attività negli Stati Uniti sono passati da 50.000 a 30.000. Ciò che si può affermare oggi è che la partita tra nerd musicali in carne e ossa e macchine la vincono i signori delle playlist. Più difficile, come insegnava il fisico Niels Bohr, fare previsioni, soprattutto sul futuro. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Riccardo Staglianò, La playlist è decisa, da noi, dal venerdì di Repubblica, del 25 novembre.